La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 24 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana i giornali sono stati invasi dalla notizia del via libera dell'AIFA alla RU486, la cosiddetta pillola abortiva. In realtà, stufi di leggere solamente commenti politici su questo argomento, noi abbiamo voluto trattarlo dal punto di vista scientifico e ne parleremo questa settimana col professor Silvio Viale dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Buongiorno professor Viale. Buongiorno a voi. Professor Viale, noi all'inizio abbiamo queste 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. E allora, se le chiedessi in 100 parole di descrivermi la RU486, lei cosa mi risponderebbe? Direi che è un fatto che è stato sintetizzato per motivi endocrinologici e si è scoperto che per le sue caratteristiche ha quello di opporsi all'ormone della gravidanza, il progesterone. Da questo aspetto è venuta la possibilità di fare un aborto senza l'intervento chirurgico e questa è stata un po' la fortuna e la sfortuna del farmaco. La fortuna perché deve a questo la sua popolarità, la sfortuna perché un po' ha messo in secondo piano le altre caratteristiche e la possibilità di usarlo come farmaco in moltissime altre indicazioni. Oggi la ricerca scientifica non riguarda solo l'aborto, ma riguarda anche tutti i campi ginecologici, oncologici, psichiatria di vario tipo, e il tabù nei confronti dell'aspetto scientifico è davvero sorprendente e preoccupante. Professore, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio cominceremo la trasmissione. Glass of beer, walking through November rain, in a cold October night. No pictures of the sun, no colors in the dawn, and a whispering wind is leading my way home. Echoes follow my footsteps and shadows cover my sight. The dead are dancing in moonshine, singing elegies for my rotten soul. No picture of the sun, no colors in the dawn, and a whispering ring is leading my way. Watching, listening, waiting for the sun. Where if they could pass, where shall I go? Bentornati in studio, cari radioascoltatori. Stiamo parlando col professor Silvio Viale dell'ospedale Sant'Anna di Torino e stiamo parlando proprio di questa cosiddetta RU486, la pillola che viene chiamata abortiva. In realtà in questa trasmissione, visto che trattiamo di scienza, ci teniamo sulla scienza e quindi cerchiamo di capire come agisce la RU486. Abbiamo cercato di introdurre che cos'è la RU486 e quindi effettivamente come agisce questa pillola e in che modo deve essere utilizzata. Allora, la RU486, il cui vero nome è mifepristone, che è il nome commerciale, l'unico nome commerciale, uno mifegine in Europa e misodex negli Stati Uniti, ha delle caratteristiche antiandrogene contro l'ormone del testosterone, quello maschile, anticorticoide, diciamo contro il cortisolo, e antiprogestino contro il progesterone. Per quanto riguarda l'aborto, si sfrutta questa sua caratteristica di antiprogesterone, per cui si lega ai recettori del progesterone e riduce le possibilità che una gravidanza possa andare avanti fino a interromperla. Nell'aborto delle prime settimane, cioè nell'aborto cosiddetto medico, nell'aborto precoce, limitando a questo campo, perché la si può usare anche in tutto il resto della gravidanza, compreso il parto, la si usa in associazione con una prostaglandina, cioè un secondo farmaco che favorisce l'espulsione del proprio concepimento, cioè dell'embrione, e in questo modo si è visto che l'efficacia arriva al 95%, permettendo di evitare l'intervento chirurgico, limitandolo solo al 5% dei casi. Professor Viale, la interrompo un attimo perché lei ha citato due termini che sono il cosiddetto mifepristone e la prostaglandina. Effettivamente che cosa sono questi due? Allora, il mifepristone è l'R86, è un ed è un antiormone perché agisce contro i recettori di altri ormoni. La prostaglandina è un altro farmaco, è un farmaco, diciamo, di una famiglia che ha delle caratteristiche per quanto riguarda: uno, l'azione sull'utero; due, agisce sulla mucosa gastrica in generale e quindi un antiulcera per alcuni aspetti, ed è un prodotto intermedio di cicli farmacologici come quelli dei normali antinfiammatori. Il suo uso però come farmaco è sostanzialmente limitato agli aborti e in gastroenterologia come gastroprotettivo. Sicuramente molte avranno sentito le polemiche legate al Citotec, che è il nome commerciale più noto in Italia, che è un farmaco registrato appunto come antiulcera, e in ospedale usiamo un'altra prostaglandina, che è il Gemeprost, che è quello che usiamo per gli aborti terapeutici. Quindi diciamo che sono due farmaci di difficile comprensione, difficile utilizzo, perché sono molto specifici e è normale che il grande pubblico non li conosca e in qualche modo rimanga un po' spiazzato, ecco. Professore, effettivamente cosa fa la prostaglandina e il mifepristone per praticare nel protocollo l'aborto terapeutico? Il mifepristone prepara il terreno sensibilizzando ulteriormente sia la muscolatura dell'utero, sia il collo, cioè il recettore del collo dell'utero, favorendo un po' la dilatazione e l'ammollimento del collo, e la prostaglandina è quello che in qualche modo invece è il motore, quello che alla fine provoca, tra virgolette, le contrazioni. Poi in epoca così precoci è difficile chiamarle contrazioni, comunque favorisce l'espulsione dell'utero. Tutti e due sarebbero singolarmente abortivi in una buona percentuale dei casi. Le prostaglandine da sole sono utilizzate per gli aborti terapeutici e possono provocare l'aborto in tutte le epoche di gravidanza. È chiaro che l'uso della R486 mifepristone riduce le dosi di prostaglandina necessaria e riduce i sintomi e gli effetti collaterali, che differentemente da quanto la polemica induce a credere non sono dovute all'R486, ma sono dovuti alla prostaglandina, che è quella che provoca poi il dolore, eventualmente la nausea e anche la diarrea come effetto collaterale. Quindi diciamo che il mifepristone agisce sull'ovulo appena fecondato, mentre la prostaglandina agisce sulla placenta? Beh, no, non direi, nel senso che direi che i mifepristone tutti e due agiscono sull'utero e sulla gravidanza. Semplicemente la prima prepara il terreno e può provocare l'aborto a distanza di giorni, magari in 50-60% dei casi. La prostaglandina invece provoca l'espulsione su un terreno preparato dal mifepristone e l'aborto avviene nel 95% dei casi. la posta tranvia da sola provocherebbe nel 70-80% dei casi, quindi sono due farmaci sinergici. Si è provato anche a somministrarli assieme, non soltanto dopo due giorni l'uno dall'altro, si è provato anche ad accorciare il tempo a 24 ore, ma si è visto che in questo momento il protocollo migliore è quello che prevede la somministrazione della prostaglandina 36-48 ore dopo. Non c'è nessun vantaggio ad attendere di più e non c'è nessun vantaggio ad accorciare il tempo di somministrazione. Professore, faccio un'ultima domanda prima del primo intervallo musicale. Se potessimo fare per un attimo un percorso ideale, su che cosa agisce quindi la prostaglandina? Prostaglandina agisce sui recettori delle prostaglandine, però è la possibilità di far contrarre l'utero e di staccare il prodotto del concepimento e farlo espellere diventa maggiore, quindi amplificato. Poi i meccanismi micromolecolari per questo accade sono un po' un mistero, come tutte le dinamiche di questo tipo, riguardo la biochimica. Non sempre si conosce tutto. L'effetto però è quello di produrre un aborto volontario senza ricorrere all'intervento chirurgico. Peraltro lo stesso meccanismo funziona anche nel caso di aborto interno, cioè quando la gravidanza si interrompe ma non avviene l'espulsione, o nel caso di aborto spontaneo incompleto, quando si verifica un aborto ma non una parte del prodotto del concepimento, di solito il corion, cioè la placenta, per usare un termine forse più comprensibile, rimane ancora dentro l'utero, e quindi con le prostaglandine e anche con il fiatistone si facilita questa espulsione. Professore, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e continuiamo questa interessantissima chiacchierata. Professor Viale, siamo ritornati in studio. Per coloro che non avessero seguito la prima parte, si sta parlando di cosiddetta RU486, la cosiddetta pillola abortiva di cui abbiamo sentito parlare tanto nei giorni scorsi, e a questo punto cominciamo a parlare di protocolli. Quindi effettivamente come deve essere utilizzata la RU486? Io ho notato che ci sono diversi tipi di protocolli, non ce n'è uno solo. Qual è la differenza fra l'uno e l'altro, e qual è quello che è stato attivato in Italia? Lei peraltro è uno dei ricercatori, dei medici che l'ha attivato per primo qui nella nostra nazione. Ma la differenza tra i vari protocolli è minima, perché tutti prevedono la somministrazione il primo giorno del micapistone, cioè del RU486, il dosaggio è 200 o 600 mg, questo perché la dose registrata era 600, si è visto che con 200 mg è efficace in gran parte allo stesso modo, ma si è anche visto che se si usa 200 mg occorre aumentare la dose di prostaglandina in molti casi, e poi dipende da che epoca di gravidanza si interviene. Se si fa a 6-7 settimane è una cosa, se si fa a 8-9 settimane, quando la gravidanza è più avanti, occorre una dose di prostaglandina maggiore magari. Ecco perché il micapistone si usa al primo giorno, dopo due giorni si dà una prostaglandina, e la prostaglandina disponibile sono due: uno è il Citotec, che lo si può dare per via orale o per via vaginale. La via vaginale era preferita ed è preferita da molti perché ha un picco di salita minore e si prolunga un po' più nel tempo l'azione. La via orale è più comoda per si tratti di assumere delle pastiglie e produce però un effetto immediato, a volte con degli effetti collaterali maggiore. La discussione è abbastanza vivace, anche perché di chiede alle signore in situazioni episodiche se sentono più o meno dolore, se hanno avuto più o meno nausea, e le risposte non sono così codificabili facilmente. Vi è la possibilità di usare un'altra prostaglandina, che è il Geneprost, che è la prostaglandina che in Italia è autorizzata per questi usi già da tempo, la quale è considerata una prostaglandina più potente ed è utilizzabile solo per via vaginale, costa anche molto di più, nel senso che una dose del Citotec costa 40-50 centesimi, una dose di Geneprost costa 35-40 euro. Nei posti in cui, nei paesi in cui questo viene preso in considerazione, ha un suo significato. Quindi i protocolli sono più o meno uguali. La ditta francese per lungo tempo si era opposta all'uso della via vaginale per la prostaglandina, e in Francia infatti il protocollo francese prevedeva soltanto la via orale. Nel mondo anglosassone e in Svezia si preferiva utilizzare il Geneprost, l'alta prostaglandina, o per via vaginale molto spesso il Citotec. Negli Stati Uniti fu registrato il Citotec per via orale, ma molti medici trovarono più comodo somministrarla per via vaginale. Oggi è stato messo un po' d'ordine, perché l'Agenzia Europea del Farmaco ha stabilito che fino a 7 settimane si possono usare entrambe le prostaglandine, e il dosaggio può essere di 200 o di 600 per quanto riguarda il micapistone, ma dopo le 7 settimane è preferibile usare il Geneprost, che è la seconda prostaglandina, quella diciamo più potente. Se si usa la dose di 200 mg di micapistone, cioè più bassa, di RU486, è consigliato per la prostaglandina usare il Geneprost, che è il dosaggio più, che diciamo la prostaglandina considerata più potente. In realtà l'esperienza personale che io ho, e anche quella dei miei colleghi, è che le differenze tra i vari protocolli sono minime. È difficile stabilire proprio la differenza, e l'aspetto organizzativo o di comodità, sia per quanto riguarda il medico che la paziente, che la struttura sanitaria in cui opera, è di fatto la determinante forse principale per decidere quale protocollo utilizzare, e riflette un po' la differenza tra i vari sistemi sanitari. Professore, nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare del come utilizzare questo protocollo, ma questo protocollo la donna lo può fare a casa o lo deve fare necessariamente in the hospital? Perché questa è una delle cose più importanti da dire. No, allora, a casa non viene fatto in nessun posto al mondo. Il 486 è sempre a disposizione solo dei medici autorizzati a fare aborti, e nei vari paesi cambia la tipologia, perché non sempre è l'ospedale, di solito sono ginecologi autorizzati o ambulatori, eccetera. Il ricovero non è previsto in nessuna parte al mondo. È prevista l'assunzione dell'aeroporto 6 davanti al medico autorizzato a fare aborti e l'assunzione della prostaglandina o davanti al medico o in alcuni paesi, quelli che la usano da più tempo, come ad esempio la Francia, ma anche sempre di più l'Inghilterra o negli Stati Uniti, viene data la signora che la può assumere a casa e quindi assume le seconde pastiglie a casa. In Italia il problema non si pone, infatti mi è sempre stupito le polemiche su questo punto, perché la 194 prevede che gli unici medici autorizzati a fare aborti siano i dipendenti di un ospedale, anzi i medici del servizio ostetrico ginecologico di un ospedale, che è una forte limitazione. E infatti in una casa in questo paese l'obiezione di coscienza crea dei problemi, mentre non li crea in altri paesi, li crea molto meno, e questo fa sì che l'assunzione delle due pastiglie, sia le prime che le seconde, dovranno avvenire sempre in ospedale. Quindi questo fa sì che verrà fatto probabilmente in degli hospital. In passato, negli anni 80, quando la Mangiagalli fece i primi studi, veniva fatto addirittura in ambulatorio, cioè nemmeno sotto ricovero. Il day hospital è un ricovero, il day hospital dovrà essere prolungato per richiesta della signora o per esigenze cliniche, diventa un ricovero ordinario e pacifico. Se per qualche motivo venisse imposto il ricovero ordinario, o dal ministero o da qualche assessore un po' nervoso, eccetera, questo non impedirà alla signora di poter andare a casa tra la prima e la seconda somministrazione, o firmando le dimissioni volontarie o col permesso del medico, e quindi non cambia moltissimo, anche perché nella nostra esperienza della sperimentazione a Sant'Anna, quando fu imposto dal ministero il ricovero, nel giro di un mese e mezzo tutte le donne andavano a casa in permesso, perché non c'è nessun motivo di rimanere in ospedale tra la prima e la seconda somministrazione quando non c'è proprio nessun sintomo, e può verificarsi un aborto spontaneo esattamente come può verificarsi in qualunque tipo di gravidanza, comprese quelle in cui la donna desidera la gravidanza. Quindi diciamo che la preoccupazione clinica è molto molto da ridimensionare, nel senso che ci sono tutti i rischi, come tutte le cose che uno fa, come andare in macchina, insomma, che però non c'è nessun motivo di preoccupazione maggiore. E se si usa il criterio che si usa per gli altri interventi chirurgici, per gli altri interventi medici, in gli altri settori della medicina, non ci sono preoccupazioni. Se invece l'aspetto medico è il pretesto per i tentativi di interferire con altri punti di vista per altre ragioni, beh, questa è una strumentalizzazione di cui si prende atto, è un altro tipo di discorso, però non è più un discorso scientifico. Professore, un'ultima domanda: se potesse fare un rapporto fra l'aborto farmacologico e l'aborto chirurgico, quindi in sala operatoria, qual è dei due quello che risulta avere meno effetti collaterali? L'aborto fino a 90 giorni, in realtà in Italia è sempre un aborto terapeutico, perché la donna dichiara di voler abortire e deve accusare un serio pericolo per la salute fisica e psichica. Ecco perché in Italia l'aborto fino a 90 giorni è considerato aborto volontario e l'aborto dopo il 90° giorno è chiamato aborto terapeutico. In tutto il mondo l'aborto dopo il 90° giorno è fatto con tecnica chirurgica prevalente. In Italia da sempre si fa solo con aborto farmacologico e si usa le prostaglandine. Io sono dei pochi che recentemente ha introdotto l'aborto chirurgico nel secondo trimestre, e fino a 15-16 settimane, perché è meglio che la donna in giornata se la cavi e vada a casa, piuttosto che induzioni che possono durare anche più giorni, rimanendo nelle parti di ostetricia dove potete immaginarvi ci sono le altre signore che partoriscono, i mariti che portano i figli e via dicendo. Dopo i primi 90 giorni in tutto il mondo si fa chirurgico, anche in Italia, e sempre di più diventa medico da quando c'è l'RU486. Quindi paradossalmente in Italia, quando c'è da fare quello chirurgico, nel secondo trimestre facciamo quello medico, e nel primo trimestre facciamo quello chirurgico e si fa resistenza a quello medico. I sintomi sono dovuti alla prostaglandina e alla dose di prostaglandina che si usa, che man mano che la gravidanza procede è una dose più elevata. E poi c'è una componente individuale, personale, della donna, della sua sopportazione al dolore, della sua situazione psicologica, di tanti aspetti, che le fa sentire di più o di meno il dolore, lo fa sopportare o meno, o gli fa chiedere, o gli fa rendere più sopportabili i sintomi. Da questo punto di vista, nella nostra esperienza, abbiamo visto che un terzo delle donne ha sintomi scarsissimi, che paragonano al flusso mestruale. Un terzo delle donne ha sintomi che dichiara superiore a quello del flusso mestruale, e un terzo invece ha bisogno di un antidolorifico perché ritiene che il dolore sia molto forte. Faccio notare come nell'aborto chirurgico il 100% delle donne ha l'antidolorifico e ha l'anestesia, quindi per l'aborto, quando si potrà scegliere, si valuterà con la signora cosa è meglio fare. Quello che ho ritenuto e ritengo tuttora inaccettabile, per questo mi sono battuto per tanti anni, è che in qualche modo si dicesse che un metodo era accettabile e l'altro metodo fosse da vietare, cosa che è stata così in Italia per molto tempo e spero che non debba più accadere. Professor Viale, la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri radioascoltatori e gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, professor Viale. Grazie a voi.